Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera e benvenuti a Smart City, Maurizio Melis al microfono. Riprendiamo la conversazione interrotta ieri sera con Paolo Riva, professore ordinario di tecnica delle costruzioni dell'Università degli Studi di Bergamo e vicepresidente dell'ISI. ISI sta per Ingegneria Sismica Italiana ed è un'associazione che riunisce vari operatori che si occupano di sicurezza sismica, quindi imprese, progettisti e ricercatori. Intanto buonasera Riva, bentornato. Buonasera a voi. Dunque, ieri abbiamo parlato di alcune delle tecnologie più avanzate per la protezione antisismica, in particolare di tecnologie che consistono nel realizzare, diciamo, degli speciali, chiamiamoli così, mi passi il termine, ammortizzatori sotto l'edificio, per cui diciamo che durante un terremoto, anche se il terreno oscilla violentemente, l'edificio rimane quasi fermo e quindi non subisce danni. Questo è un approccio molto efficace, però ecco, queste opere spesso sono costose, un po' invadenti, e allora questa sera vogliamo raccontare tutta un'altra serie, diciamo un'altra categoria di interventi che sono meno sofisticati, sono anche però decisamente più economici, e c'è forse una parola chiave dalla quale possiamo partire, che è incatenamento. Sicuramente. Allora, l'altra tipologia di interventi sono interventi che possono essere di miglioramento sismico o anche di adeguamento. La differenza consiste nel fatto che miglioramento vuol dire che l'edificio sta meglio di prima nei confronti del terremoto, malgrado non riesca a avere la resistenza che avrebbe un edificio nuovo. Ma più delle volte questo è più che sufficiente, pensando di intervenire al rischio residuo. Allora, gli interventi di incatenamento che ha menzionato sono interventi tipici per strutture in muratura, e l'idea è molto, molto semplice. Se noi pensiamo all'edificio come una scatola, e pensiamo come si fa a rompere una scatola, tipicamente si strappa il lato verso l'esterno, quindi si ha quello che si chiama ribaltamento. E se noi volessimo riparare la scatola delle scarpe, cosa faremmo? Metteremmo dello scotch intorno e magari ci mettiamo anche il coperchio. Allora l'incatenamento è il sostitutivo dello scotch, cioè l'idea, peraltro non è una tecnica nuova, è una tecnica che si usa dal Rinascimento per tenere insieme per esempio le grandi cupole, per evitare che collassino sui lati a causa del peso della cupola, che i muri spancino, diciamo così, esatto. Si mettevano delle catene all'interno, catene, no? Quindi la catena non consiste altro che mettere degli elementi che generalmente sono barre di ferro che collegano tra di loro muri tra loro ortogonali, impedendo a muri ortogonali di staccarsi, disorganizzarsi in presenza di azioni orizzontali, e quindi aiuta l'edificio a mantenere la forma di scatola. Se guardiamo molte fotografie del terremoto, si vede che anche case con tipologie costruttive molto povere, ma con incatenamenti a volte anche deboli, hanno subito danni assai significativi, ma sono quantomeno rimaste in piedi. Non sono venute giù. Ecco perché, appunto, ricordiamolo anche qui, a volte l'obiettivo è questo, di fare un edificio che magari si danneggia ma non ti crolla sulla testa. È certamente il primo obiettivo, quindi salvaguardia della vita umana. Limitazione del danno sono obiettivi altrettanto importanti dal punto di vista economico, ma scontando secondari. Ma certo. Ecco, senta, abbiamo parlato di incatenamento di barre di ferro, in realtà stanno venendo fuori molte tecnologie, addirittura si usano materiali tipo la fibra di vetro, se non sbaglio. Ecco, ci può fare qualche esempio? Tipicamente un'operazione del genere quanto costa? Che tipo di invadenza ha sulla vita delle persone che abitano quel fabbricato? Allora, qui bisogna distinguere un po' delle tipologie di interventi. L'incatenamento puro si fa generalmente con barre metalliche longitudinali che attraversano i locali, forando praticamente solo dall'esterno, a un'invasività modesta, e ha un costo anche contenuto. Potrebbe essere al più 100 euro metro quadro. Ecco, quindi parliamo di applicare delle barre che si fanno dei buchi nel muro, si tassellano in qualche modo, diciamo così, queste barre. Si mette un capochiave all'esterno, si vedono in giro per tutta Italia i capochiave, e la barra passa all'interno e collega il muro prospiciente dall'altra parte dell'edificio, di fatto. E questo poi, è l'intervento più semplice. Altre tipologie di interventi consistono nell'utilizzo di intonaci armati o cose similari. Cioè viene attaccata una specie di rete in questo caso alla superficie dell'edificio, giusto? E spesso in questi casi si fa ricorso a malte speciali che siano compatibili con la muratura e utilizzo all'interno della malta di reti di vari materiali, possono essere in fibra di vetro, in fibra di basalto, in fibra di carbonio, diversi tipi di fibra. Quelle di carbonio vengono spesso usate anche sugli elementi in cemento armato, per ad esempio fasciare i pilastri, dando quindi ai pilastri una maggior possibilità di esibire deformazione. Quindi anche avere elementi meno fragili aiuta nei confronti del terremoto. Cioè in pratica lì la trave, anche se si frattura, non si spezza completamente. Mi piego ma non mi spezzo, esatto. Questo è un po' l'idea del terremoto. Parlando di costi, è anche importante osservare che mentre gli incatenamenti hanno un costo contenuto, gli interventi con intonaci armati o con fasciature di elementi verticali e orizzontali mediante fibre tendono ad avere costi un po' più alti, una maggiore invasività, diciamo sull'ordine dei probabilmente 300 euro metro quadro. Benissimo, allora su questo tema, anche degli incentivi e di come convincere gli italiani a fare questi adeguamenti, ci torneremo prossimamente. Per intanto grazie ancora professor Riva. Grazie a voi, buonasera. Ci fermiamo qui, appuntamento come sempre a domani. Buona serata a voi tutti.